Pronto, sono Lucio Dalla, ciao. Lucio, salve, benvenuto, benvenuto a Radio Alma, brussellando. Noi siamo... Mi fa piacere sentirvi, viva il Belgio. Viva il Belgio. Allora, io sono Marie D e sono in compagnia di Giorgio Ra e conduciamo la trasmissione a martedì sera proprio per gli italiani in Belgio. Mi fa molto piacere. Io invece sono a Sanremo dove faccio il direttore di orchestra di un cantante che produco e che è anche nella finale e mi sto divertendo non so se mi devo impiccare o divertirmi, preferisco divertirmi. Delle due mi sembra l'opzione migliore. Assolutamente. Allora, noi sappiamo che sarà poi a Bruxelles tra un paio di settimane in concerto. Sì, che è una città che amo, che ci sono già stato, che ho degli amici. Bene, e che veramente mi fa piacere ritornare a cantare a Bruxelles. Benissimo. Allora, una delle sue canzoni, di quelle che più ci ha affascinati, è Futura. Pensa che quel messaggio di speranza a 30 anni di distanza possa essere ancora valido? Ma guarda, la speranza è valida sempre, anche quando teoricamente non c'è. In realtà invece adesso ce n'è, primo per quello che riguarda il nostro paese che sta uscendo da una situazione in tutti i sensi e non solamente economico-politica, ma sta uscendo da una situazione di impasse, di blocco, di staticità come altri paesi dell'Europa, insomma è un momento non facile da vivere questo. Allora sai, non è facile, ma se levi anche la speranza che la cosa vada meglio è proprio come impiccarsi, come dicevo prima. Quindi io sono convinto che viviamo un momento della nostra società, della nostra mutazione, che dopo aver toccato veramente un punto basso sia anche fisiologico il fatto di guardare a domani con un po' più di serenità e di impegno e anche di qualità della vita che deve ritornare. Insomma. Abbiamo passato anche di peggio onestamente, però questo non è un momento facile, ma anche per la musica, anche per la canzone, per l'arte in genere. Cioè, c'è molta staticità in questo momento, pur accadendo delle cose violentemente tragiche come sta accadendo in questo momento. Vero. Una domanda invece sono Georges Laurent, una domanda un po' diversa. Cioè, per riassumere 50 anni di carriera, se si potesse associarli ad un quadro, che immagine sceglierebbe? Ma guarda, lì il problema di associare la mia vita a un quadro, amando moltissimo la pittura, io sono, forse la amo quanto la musica, mi vengono in mente tante cose, ecco. Sì. Però in realtà se dovessi in qualche modo visitare con una torcia, la pila, una luce, la mia vita, non solo artistica, ma la mia vita in generale, mi piacerebbe immaginarla dipinta da Caravaggio, ecco, lascia stare il sacro. Ma però con questa dimensione proprio dei colori, della luce che entra dentro, perché in fondo è stata una vita fino adesso tutto sommato divertente, mi sono molto divertito a fare le cose che ho fatto, tra l'altro non so se lo sapete, ma io vabbè sono uno che canta, che scrive canzoni, ma faccio tante altre cose, faccio il regista delle opere, tra l'altro conosco il vostro sovrintendente che era sovrintendente a Bologna quando facevo le regie. Scrivo per la televisione, insegno all'università, faccio tour di jazz, faccio molte cose e allora questo mi impedisce fortunatamente di annoiarmi, ecco, non c'ho mai un giorno o c'ho pochi giorni completamente liberi, ma perché li voglio occupare io, perché mi diverto a vivere, ecco. La gioia di vivere, divertirsi a vivere è un bellissimo messaggio, noi cerchiamo di copiarti su questo. E l'altra cosa volevo chiedere, che ruolo ha avuto la poesia e la letteratura nella produzione artistica di Lucio Dalla? Ma devo dire molto, perché ci sono delle canzoni, per esempio L'anno che verrà è nata dopo che stavo leggendo un libro di Robert Walser che si chiamava La passeggiata, è completamente diverso proprio il libro dalla canzone, ma in realtà l'aspetto diciamo così... il ritmo della narrativa di Robert Walser e questo fatto della passeggiata che lui faceva in un momento così scabroso come l'epoca nella quale lui appunto scriveva il libro e faceva la passeggiata, la visione del mondo mi ha suggerito non l'argomento ma il ritmo dell'anno che verrà e così tante altre canzoni, cioè la poesia per esempio, io stimo, ho lavorato molto con un poeta e Roberto Roversi, che è uno dei poeti più importanti del Novecento, ancora vivo fortunatamente, quello che ha scritto Nuvolari con me, abbiamo fatto 3 dischi insieme, e molte delle mie sollecitazioni dopo che cominciai invece a scrivere i testi io vengono da quel periodo lì, quindi in realtà io sono molto relazionato alla lettura, alla scrittura. Torniamo alle canzoni, quindi un'altra delle canzoni che veramente abbiamo molto amato è Ulisse. E quale, scusa, non ho capito. Ulisse. Ah, certo. Se oggi dovesse riscriverla, oppure oggi la riscriverebbe, manterrebbe intatte le parole, il messaggio? Ma guarda, non farei niente di quello che ho già fatto. Cioè, se c'è una cosa, no, non è che non lo farei, lo farei diverso. Se c'è una cosa che mi dà grande allegria è che il giorno dopo, al giorno che viviamo, è completamente diverso. Per cui abbiamo quasi l'obbligo di rinnovarci proprio per poter continuare a sperare di capire il mondo che ci circonda, perché muta più in fretta di quanto non mutiamo noi. Per cui l'impegno di uno che fa il mio lavoro, ma anche di uno che scrive libri, o di un giornalista, o di un musicista, o di un attore, è quello di capire quello che sta accadendo per raccontarlo poi agli altri. Quindi sicuramente qualsiasi canzone che ho scritto fino a ieri, oggi la farei in maniera diversa, magari non meglio o peggio, speriamo di no. Cioè, non scriverai mai, e non ho mai pensato di scrivere un'altra Caruso, nonostante la canzone nel mondo abbia venduto più di 30 milioni di dischi, cantata da tutti quelli che l'hanno cantata. Però l'ho già fatta, quindi non la ripeterei proprio assolutamente. Secondo lei, comunque, questa figura, la figura di Ulisse, che ancora tanto affascina, ricollegandomi a quello che dicevamo prima anche su Futura, può essere comunque ancora una figura trainante e fuggire da un po'? No, beh, certo, perché l'archetipo è funzionante. Cioè, sai, tutto quello che c'è stato nel passato ci ha dato delle coordinate che in qualche modo sono entrate nel nostro modo di vedere le cose, nel nostro modo di viverle. Cioè, la mitologia, che diciamo è quella più lontana nei tempi, ancora oggi ha la sua funzionalità. Si possono fare dei paragoni, dei parametri. Quindi la figura di Ulisse oggi la troviamo in tanti individui che magari hanno una storia diversa, ma delle caratteristiche comuni. Cioè, quello che vuole incontrare quello che non ha mai visto, quello che vuole scoprire il mondo, quello che è curioso non solo di vedere, ma anche di entrare dentro se stesso. Sono personaggi che ancora li troviamo. Continuando quindi a parlare di musica, vorrei parlare anche di questo suo ultimo brano presentato a Sanremo. Si è trattato sicuramente di una scelta coraggiosa, anche perché la canzone tratta di un tema molto spinoso come quello della prostituzione. E sicuramente la sua interpretazione è un'interpretazione realista che evidenzia comunque una solitudine insuperabile. Davvero siamo quindi in un mondo senza eroi? Beh, diciamo che gli eroi cambiano, l'abbiamo detto prima. Cioè, se uno cerca di confrontarsi in quello che il mondo ha vissuto, trova proprio delle distanze. Oggi abbiamo detto Ulisse oggi è diverso dall'Ulisse di allora. Gli eroi dobbiamo costruirli seguendo una visione del mondo che non è quella di prima, perché soprattutto il mondo cambia, e se il mondo cambia cambiano anche i protagonisti, cambia, però restano fissi questi archetipi, questi personaggi che fanno parte del nostro immaginario e che poi noi cambiamo ogni volta adattandogli al nostro nuovo modo di vivere. Però se parliamo di Socrate non è come Paperino o Topolino. Però noi ragioniamo ancora per queste forme in qualche modo di adesione al pensiero del mondo che parte da molto lontano. Cioè, giusto essere anche nuovi, sperimentali, ma non dobbiamo dimenticarci delle grandi cose che fanno parte della nostra conoscenza, della cultura, e ci hanno portato fino a oggi. A proposito quindi della sua produzione musicale, il suo ultimo album, Questo è Amore, quindi, insomma, del 2011, contiene brani cosiddetti minori, scritti tra l'altro tra il 71 e il 2009, brani dedicati all'amore. Ce ne vuole parlare? Perché io veramente, a me è piaciuto moltissimo questo suo album. Beh, ma sai cos'è? Che appunto, cioè, io, siccome feci 3 anni fa un Great Hits con tutti i successi, i pezzi che hanno fatto vendere milioni di dischi ai dischi, io poi, questa è una cosa che intuivo, ma poi riscoprendo, risentendo dopo, ho scoperto che ci sono le cose che la gente conosce meno, che magari non tutte, ma qualcuna è sicuramente meglio di quelle che hanno venduto milioni di copie. Mm-hmm. Quindi è un atto dovuto al pubblico, quello di fargli sentire le cose che secondo il mio giudizio, ma tra l'altro il disco sta andando bene, secondo anche il giudizio del pubblico, hanno qualcosa in più. E allora ho voluto rileggere un po' la mia storia nella discografia, cercando di prendere le cose migliori, soprattutto quelle meno conosciute, anche perché poi ti ripeto, 3 anni fa avevo fatto un disco invece dei grandi successi, così hanno una visione completa del catalogo e di quello che ho fatto. Beh, allora, con tutta questa esperienza e questi quasi 40 anni di carriera sulla parola, intorno alla parola amore, che cos'è l'amore per Lucio Dalla? L'amore è quello che ci fa andare avanti nella vita, non parlo solamente dell'amore fisico, dell'amore, ma l'amore per le cose, l'amore per la cultura, l'amore per gli altri soprattutto, anche l'amore che un uomo deve avere per se stesso, ma non in maniera egoistica, cioè sapere che vale molto di più delle cose che è chiamato a fare, quindi avere la possibilità anche di entrare nel proprio mondo e cercare di migliorarlo, per essere disponibili, per essere meglio e per essere utilizzabili quando esistono i sentimenti, che sono le cose che oltre alla logica, all'intelligenza, costruiscono o dovrebbe essere costruita la società di oggi. Lucio, conclusa la parentesi sanremese, quali sono i tuoi propositi musicali per il futuro? Beh, adesso sto facendo 2 colonne sonore, una delle due andrà a Cannes, al Festival del Cinema di Cannes o a Venezia, è una cosa che ci deve ancora precisare, che è un Pinocchio fatto da Enzo Dalò, che è un grande regista italiano, con i disegni di Mattotti, poi uscirà un film americano dove il protagonista è il nipote di Bob Kennedy, con Giannini e con Alec Baldwin, poi un altro film di Salem, e poi dopo devo preparare un disco di inediti, ma lo farò da quest'estate, perché ho anche lo studio nella barca che tengo a Napoli o nello studio che ho nella mia casa che ho le Isole Tremi. Comincerò già a pensare più che a scrivere, a pensare a cosa scrivere, poi io giro sempre con un'agenda e quando ho delle idee le butto giù, poi le rivedo e comincio il lavoro. Beh, come avrai notato, siamo partiti da lei iniziale, siamo arrivati al tuo finale, chiediamo scusa sia io che Mary D, ma insomma questo Lucio che parte ci parla di Eraclito, del Pantarei, di fatto, della teoria dei giochi di Nash, perché una cosa ne crea un'altra, quando parla di Valscia, della passeggiata, che crea una canzone completamente diversa, che è politico, che è un insegnante, un professore, insomma è un maestro, e questa poliedricità non ci fa che sentire più vicini a Lucio Dalla, ci fa sentire che la nostra vita, che di fatto noi siamo italiani, che però vivono a Bruxelles. Insomma, ma sai, il trucco è che mi sento più io vicino a voi, cioè in realtà io non è che scrivo le canzoni per me o scrivo le cose e faccio le cose perché poi vanno viste, ed è proprio a proposito di amore, è l'amore che si ha naturalmente per gli altri che genera la creatività. Ci sono anche artisti diversi che la pensano diversamente, ma per quello che riguarda me è proprio l'interesse che mi suscita la gente che incontro, anche quelli che non conosco, per cui è quasi proprio, è un decalogo per me, cioè dare il meglio a quelli che usano le cose che faccio, e soprattutto le faccio per loro, non per me, ecco quello. Lucio, so che è una domanda difficile, però ci tengo a chiedertela. Noi ti abbiamo un po' elencato le canzoni che più amiamo del tuo repertorio, eppure per te c'è una canzone che, riascoltandola ancora nel tempo, significa qualcosa in particolare, più delle altre? Ma guarda, ce ne sono tante, poi io le perdo, in realtà ecco, questo disco nuovo è più una riscoperta. E in questo disco nuovo c'è una canzone che ho riscoperto e ho fatto cantare con me da Marco Mengoni, che è un grandissimo cantante dei nuovi cantanti italiani, e che io non ho mai fatto né in televisione né in concerto. La canzone si chiama Mary Louise, è forse uno dei testi più belli che ho fatto ed è venuto molto bene, perché Marco Mengoni, insieme al cantante che ho portato qua a Sanremo, che è anche autore, che si chiama Pier Davide Carone, certo, ritengo che siano le nuove leve, tra le i migliori delle nuove leve canore italiane. E quindi per queste nuove leve, no, della musica italiana, un messaggio da parte di Lucio Dalla per il futuro? Beh, sai, il messaggio che do a loro è quello che do a me in continuazione, cercare sempre di lavorare per il meglio, per dare sempre maggiore qualità alle proprie cose, cercando di essere se stessi, ma pensando anche che quello che facciamo va agli altri. Quindi non farei mai, non produrrei mai una sedia da farsi del qualcuno che si rompe una gamba, hai capito? Quindi cerco sempre di dare il meglio che nelle possibilità, ma è questa proprio la vocazione, cercare di far star bene, di avvertire, di informare, di problematizzare quando è il caso di farlo quelli che ascoltano e quelli che usano la canzone in modo buono. Lucio, noi siamo qui a Bruxelles, vorresti lasciare un messaggio per tutti i nostri amici e amiche all'ascolto? Guarda, io di solito quando devo fare un augurio a qualcuno gli dico la stessa cosa, gli dico buona vita. Ah, grazie. Che vuol dire tutto, e dico buona vita a voi che siete alla radio, ma anche e soprattutto, non soprattutto, ma anche allo stesso modo a quelli che ci ascoltano. Dovunque siete, qualsiasi cosa fate, buona vita. Lucio, noi veramente siamo stati felicissimi di questa intervista e di questo scambio e speriamo magari di incontrarci a Bruxelles. Assolutamente. Ci incontreremo sicuramente, venite perché il concerto è bello. Vi abbraccio e viva Bruxelles. Non mancheremo, a non prestissimo mancheremo. In bocca al lupo ancora per Sanremo. Grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao, grazie.